esseri fatati tali a noi, là sulla tabella. Dal concilio si a tutti voi, s'ordinato un giorno, potente esorcismo, il concilio di Trento ha compiuto ostilmente. Misterioso mondo arcano che vigila tra i monti, dall'esilio scenderà perché prosperità ci incontri. Non è ancora il giorno della grande corsa, non è il giorno, non è il giorno della grande corsa, non è il giorno. Stagione inizio non può aver, se in campo creativo il turbine dell'uragano anticipa la corsa. Se turbate sono le spose del vento, sale l'uragano. La corsa va inizio, son turbato. Senti il rombo del tuono. E han tirato tra le alte cime un'incantata fune, sulla fune danzano di notte, danzano tra le rupi. Uomo, il senno perderai se loro ti danzeranno intorno. L'anno finirà e la danza avrà inizio, la lieta danza, l'anno finirà. La danza avrà inizio, la lieta danza.